Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 141esima trasmissione, pensate, di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi, e appunto questo è il nostro spazio che va dalle ore 21 alle ore 22. E potete ascoltarlo o sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87-900 MHz, oppure sul nostro sito internet, che vi ricordo che è www.clrbp.it/laradio.htm, cliccando semplicemente sull'icona in diretta. Quindi salutiamo tutte le ascoltatrici da tutta Italia e chissà, magari anche oltre. E stasera siamo in studio io e Tania. E Tania. E vi ricordiamo che se volete parlare con noi potete farlo telefonando direttamente in trasmissione qui in radio allo 06 49 1750, oppure potete scriverci un'email, anche se non riusciamo a leggerla in diretta, ma la prossima volta sicuramente sì. Il nostro indirizzo è contatti@clrbp.it, oppure, come già sapete, potete mandarci degli sms per dirci le vostre impressioni sulla trasmissione o chissà magari anche sulla nostra ultima iniziativa che è andata sabato scorso, Flamenco che Passion. Il numero è 338 4146 682, e io passo la parola a Tania, che è stata la nostra inviata specialissima a Pasqua, ha lavorato per noi per il coordinamento, e sentiamo dove è stata di bello. Allora, ciao a tutte, questa volta vi racconto questa esperienza perché sono stata a Tolosa in Francia al 4° convegno internazionale di studi lesbici che si è svolto a Pasqua dal 9 al 12 aprile a Tolosa, e sono andata anche perché delle circa 300 partecipanti che stavano al convegno, quasi una ventina quest'anno erano italiane. E questo perché il gruppo di Bari delle Desiderande e quello di Bologna Fuoricampo sono stati invitati dal gruppo che organizza questi convegni a raccontare alle francesi al convegno un po' di quello che succede qui in Italia. Questo convegno si ripete adesso credo ogni 2 anni ed è sicuramente un'esperienza che consiglio a tutte, ma devo dire che bisogna capire un po' abbastanza bene il francese perché le traduzioni non ci sono. Quest'anno il titolo del convegno, il titolo e il tema era Furore e Giubilo, perché in effetti se ci pensate sono due parole che in genere non vengono associate alle donne, che nella nostra società sono le madri, le mogli, e in ogni caso hanno in genere il ruolo di delle ascoltatrici, di accompagnare quindi gli altri componenti della famiglia, e di certo non sono quelle che possono esprimere rabbia, figuriamoci furore. E quindi probabilmente gli eccessi in genere sono negati alle donne, e quindi anche il giubilo insomma è espressione di chi è forte, autonomo e creativo, e quindi insomma sono due parole, furore e giubilo, che sicuramente da riappropriarsene. Sì, esatto, di cui attraverso il convegno un po' ce ne siamo riappropriate. E questa sera vi facciamo sentire 2 o 3 interviste, e vi leggo anche un pezzo di un articolo di Rosanna Fiocchetto, che anche lei è intervenuta al convegno di Tolosa con la relazione Fenomenologia e Pratica della Rabbia, Amazzone di ieri e oggi. E comunque, prima di tutto ciò, vi facciamo sentire un pezzo musicale con un po' di furore. Thank you. I'll make you feel like you are the only man. Well, yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. Dall'articolo su Tolosa di Rosanna Fiacchetto, per Tolosa e per la sua regione del Midi, infatti, si parla ormai di lesbopoli e di galassia lesbica. Vi sono concentrati 16 gruppi e associazioni culturali, 8 imprese commerciali, fra locali, una libreria e case di vacanza. Il Bagdam Caffè, fondato nel 1988, è stato per 16 anni il cuore della vita lesbica della città, con la sua intensa attività conviviale, culturale e politica, che a poco ha attratto un numero crescente di lesbiche da ogni parte della Francia. Alla perdita della sede nel 1999, le fondatrici hanno reagito combattivamente e quindi poi organizzando questi convegni, e questo di quest'anno era il quarto convegno internazionale di studi lesbici. Grazie a questa testarda volontà di comunicazione e di rivoluzione, l'iniziativa dei convegni lesbici internazionale è diventata un'università fuori dell'università, come l'ha definita la sociologa Natasha Cecuti, uno spazio anti-accademico di trasmissione di storia, teorie, cultura, vissuti e sperimentazioni, in cui si intrecciano ricerche, arti visive, danze esperienze ed età diverse. Il dibattito con Caroline Forest e Fiammetta Venner sul loro recente libro Tiri incrociati, la laicità alla prova degli integralismi ebraico, cristiano e musulmano ha offerto l'occasione di una lucida lettura dell'attuale realtà politica ed è stato l'unico evento aperto a un pubblico misto, dislocata la libreria Omble Blanche. Il giorno successivo sono cominciati gli interventi del colloquio separatista, alternati a dibattiti, proiezioni, due spettacoli in omaggio a Monique Wittig, due feste, laboratori, incontri con i gruppi italiani desideranti di Bari e fuori campo di Bologna. La filosofa Katie Barrask ha tracciato un suggestivo itinerario genealogico della parola lesbica dal subire al gioire, mentre la scrittrice Michelle Coase ha rivisitato il personaggio di Valérie Solanas, autrice nel 1967 dello scandaloso manifesto Scum. Michelle Laureau ha delineato in una splendida sequenza di immagini i temi della violenza e della vendetta a partire dalla pittrice rinascimentale Artemisia Gentileschi fino alla contemporanea Mona Hatoum. La coreografa e danzatrice Hélène Marquier ha descritto le resistenze e le sovversioni del corpo nel suo lavoro rivolto alle donne. L'etnologa Nicole Claude Mathieu ha dato vita a un animato dibattito su società matrilineari e contesto eterosociale. Ma non è tutto. Al convegno continuano le iniziative che si sono svolte durante questi quattro giorni. L'artista Felice Nusselin, le cui opere circondavano la sala del convegno, insieme alle sculture in ceramica delle dee neolitiche firmate da Petra Bialas e alle fotografie di Odile de Blue, ha illustrato al suo ciclo creativo Il ritorno delle Amazzoni, guidando poi una catartica improvvisazione collettiva visuale sonora, nella quale ha evocato Gorgoni e Furie, affiancata dalla tenerissima clown Claire de Bruyle. La regista Françoise Flamand ha documentato le migrazioni intercontinentali lesbiche degli anni 1970 e 1980 e la costruzione di una comunità di donne in California ad opera di abilissime carpentiere e progettiste di abitazioni organiche. Infine, l'analista Michel Brandini, con un supporto video fornito da Cinefable, che è il festival di cinema che si svolge a Parigi ogni anno, ha coinvolto le sue ascoltatrici in un esame della visibilità dei rapporti erotici tra donne nel cinema, e la scrittrice canadese Danielle Charest ha espresso le sue riflessioni sulle lesbiche nella letteratura, in particolare sulla figura di giustiziera nel romanzo giallo lesbico contemporaneo, un genere nel quale lei stessa è un'attrice affermata. Insomma, veramente ce n'era per tutti i gusti a questo convegno. E che invece Rosanna conclude dicendo che le donne a Tolosa hanno scambiato tra loro saperi e conoscenze, idee e creazioni, condividendoli con tutte le altre. Vengono da lotte di lunga durata, da un movimento che continua a dimostrare con originalità la propria passione critica, a indicare le molte strade della rivolta. Afferma Jacqueline Julien, il pensiero lesbico noi lo pensiamo e lo viviamo come insurrezione permanente, disobbedienza assoluta. Tutto, assolutamente tutto, è da rivisitare, da ripristinare in un mondo sclerotizzato dalla voce unica dell'eterosessismo. E noi salutiamo Rosanna Fiacchetto, che collabora molto spesso alle nostre trasmissioni. Un bacio da tutte noi del CLR. E prima di farvi ascoltare le due interviste che ha realizzato Tania a Toulouse, infatti a Jacqueline Julien e a Michel Coase. Vi facciamo ascoltare un altro brano, naturalmente francese, e quello di prima era Janis Joplin, che non c'entrava col fatto che era francese, ma faceva capire il furore, un po' di furore. Questo invece è Kelly Joyce con Vivre la vie, che sarebbe vivere la vita. Per tutte voi, io vi ricordo il numero di telefono, non ci abbandonate stasera, che la trasmissione forse è un po', insomma, un po' complicata, però densa di contenuti. Noi ci siamo, Annalisa e Tania in diretta per voi. Se volete mandarci messaggini, noi siamo al 338 41 46 682 e la prima che ci scrive avrà un bacio in diretta da Tania. Plonger mon regard dans le tien et t'aimer une vie entière ou moins. Tu es si tender, cette béguin. Tu as roulé sa perle sur ma peau. Elle a frémi de ce rythme nouveau et a bougé tous mes tendres émois. C'est toi seul l'amour et je suis sans art. Plus tard, vivre E potreste farci sapere, ad esempio, se vi piacciono trasmissioni che raccontano di esperienze come quella di Toulouse, una grande, un convegno che si organizza ogni due anni proprio sul lesbismo, dove si parla di lesbismo a livello teorico e pratico, no? Si fa tutto un lavoro. Sì, mandateci un messaggino per dirci se siamo noiosi o se invece vi interessa tutto ciò. Dei trillini, Tania, il bacino in diretta. Ma era per un sms. Ah, un sms, scusate, allora per il trillino lo mando io. Grosso bacio a chi ci ascolta. Per l'sms, quindi per il bacio di Tania, dovete scrivere un messaggino al 338 4146 682. Je t'envoie tous ces mots de passion. Le temps me dira si j'ai raison. Mon cœur pour toi danse un ultrason. Tu es tout amour et je suis sans armes, retenant les larmes, vivant sans ta flamme. Moi je n'ai presque plus d'âme. Soir de décembre, prends donc mon cœur et ma langue maintenant. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Nous pourrons danser ensemble. Siamo adesso qui con Jacqueline, che con Bagdan ha organizzato con Espace Bagdan questo incontro di tre giorni. E quindi Jacqueline, questo titolo quest'anno, Furore e Giubilo, da queste parole così contraddittorie tra di loro, come siete riuscite a metterle insieme alla fine? So che è stato un lavoro. Sì, è stato faticoso, una fatica, ma una fatica stuzzicante, entusiasmante, perché dovete sapere che all'inizio siamo partiti da Vendetta e Giubilo. Perché? Perché prima siamo partite dal progetto di fare una rassegna di film con argomento dei film, della vendetta, finalmente le donne che si vendicano, cioè un tale tabù, vero, della rabbia, tabù dell'odio, del dominante, che ci sembrava giusto fare una rassegna di film autenticamente femministi e arrabbiati, in cui noi appunto arriviamo al giubilo quando, come in Thelma e Louise, loro si vendicano della loro condizione di dominate, a parte che noi volevamo film in cui non muoiono alla fine, che certo, di solito le dominate muoiono. Va bene, allora Vendetta e Giubilo. Abbiamo anche inventato il manifesto con un quadro bellissimo e notissimo dell'Artemisia Gentileschi, e questo manifesto esiste con Giuditta uccidendo, sgozzando Loferne, e abbiamo messo, faccio l'impaginazione con Lucky Massa di Fuoricampo a Bologna, dove stavo a quel momento. Dunque eravamo partite da questo Vendetta e Giubilo, contro la vendetta contro il e Giubilo, il nostro di lesbiche. Solo che è vero che abbiamo avuto difficoltà a conservare questo titolo e quindi trovarne un altro, perché la vendetta in fondo ci rimanda al taglione, a una cosa, una specie di vicolo cieco della lotta, del fatto che noi non siamo sottomesse alla costrizione eterosociale. Una reazione a qualche cosa. Ecco, è nella reazione, è reattiva, e poi parla troppo della dominazione. Noi volevamo certo parlare della rabbia, ma parlare soprattutto l'arrabbia femminista, mm-hmm. perché siamo femministe, ma il giubilo lesbico ci sembrava un argomento, un terreno teorico molto bello da sviluppare, ricordando che questi convegni non sono solo incontri, diciamo, per stare bene insieme, è essenziale, chiaro, ma è un appuntamento teorico e possibilmente di scoperte teoriche. Noi dobbiamo fare in modo di invitare delle donne lesbiche che hanno lavorato su tale argomento e che ci portano il loro lavoro, spesso inedito. Quindi era un po' una tautologia, si dice tautologia, sì, vendete giubilo, non era abbastanza, poi sai, no, ti risparmio il Dio, grazie a Dio sono lesbica, oppure c'è stato dunque il tabù del taglione, il tabù, no, poi resistenza, con questo giubilo che ci piaceva tanto, chiaro che no, era la parola che ci piaceva di più, dunque, e quale parola così forte, così in fondo mitica, poetica, poteva controbilanciare questo giubilo? Ebbene, ti risparmio tutte le tappe, il furore, ecco. E questa edizione, l'edizione di quest'anno, adesso siamo alla seconda giornata, come sta andando? Tu riesci già a fare un bilancio? Dunque, a parte la stanchezza, incredibile, l'emozione, eccetera, ma già la tensione sta cadendo, non nel convegno, ma fisicamente per me, perché ho fatto il massimo, sì. E adesso sarà più facile. Forse nel fondo sonoro si sentivano, si sentono i tamburi e la specie di orchestra di percussioni di Felice Nusselem, che è venuta dall'Umbria per parlare delle sue Amazzoni, delle sue magie di Amazzoni, di furiose, infuriosite. Ma io direi appunto che quest'anno, nei confronti dell'altro anno, curiosamente il corpo è stato ancora più presente. E questo secondo me è una buona idea, perché dalle lesbiche il pensiero non è mai separato dalla corporeità, non solo della sessualità, io direi corporeità, e il corpo qui è presente con la coreografa Hélène Marquier, molto brava, e anche molte comunicazioni attorno alla pittura dei corpi, eccetera, con appunto Artemisia Gentileschi, che è stata, sì, presente, no? E vedete, l'anno scorso, cioè no, non direi due anni fa, era il sesso sulla punta della lingua, il titolo del convegno era molto provocatorio, già ne ho parlato qui con voi. Ebbene, quest'anno credo che questo furore giubilo ha scatenato ancora più energie fisiche attorno al corpo. Anche questa sera, con questo omaggio a Monique Wittig, che forse molte lo sanno, è morta un anno fa, e tenevamo moltissimo qui a renderla presente, a onorarla. Facciamo questa sera una specie, ma non è una specie, è una performance pluriartistica con danza di nuovo, musica, percussioni, eccetera, e recitazioni di testi, tra l'altro di Monique Wittig. Ecco. E infatti questo appuntamento si alternano momenti più leggeri e di interpretazioni anche più pratiche, con clown che intervengono, sì, tra degli interventi, e ci sono anche atelier di musica e che poi si accostano invece a interventi molto più densi, come ieri mattina hanno aperto appunto Jacqueline insieme a Michel Cos e Cathy Barasque, che è una filosofa molto brillante. È vero che ci ha fatto, abbiamo dato a lei l'inaugurazione, a parte la mia introduzione, ma l'inaugurazione del convegno con il titolo La genealogia della parola lesbica, ma nella filosofia, a livello non genealogia dal punto di vista storico che conosciamo. e poi il sottotitolo dal subire al godere, solo che in francese c'è la rima di subir o jouir. Sì. Bene, sì, la specificità di Bagdam Espace Lesbien è questa, che non concepisce, come ti ho detto prima, il pensiero, la teoria, l'utopia non la possiamo concepire senza del corpo, senza dello scambio vivace, caloroso, delle amicizie, di tutte queste compagne che si ritrovano e che hanno voglia di ballare, l'utopia dà voglia di ballare. Quindi addirittura due feste, due sere, due feste, molto diverse, in posti diversi e poi insomma tutto questo andare e rivieni tra i pranzi che si prendono giù nella cafeteria, i laboratori, eccetera, eccetera, il cinema. Insomma è un po'. Sì, sono quindi 3-4 giorni molto intensi, sicuramente. Molto intensi e tanto più intensi che abbiamo diciamo pre-inaugurato il convegno con un dibattito su un soggetto, un argomento bruciante in Francia almeno, e questa volta non separatista, cioè era in un luogo misto, cioè la libreria è la più grossa libreria di Toulouse, ben conosciuta in Francia, che si chiama Ombre Blanche, Ombre Bianche, sì. E dove abbiamo ricevuto due ragazze lesbiche molto brave che conosciamo da anni, politologhe, oddio, che hanno fatto un libro che fa molto rumore in Francia perché si chiama Tiri incrociati, la laicità alla prova dei tre integralismi cristiano, giudeo e musulmano. Quindi loro hanno la teoria, sviluppano la teoria che gli integralismi invece che essere opposti, anzi sì, sono molto d'accordo per almeno nell'odio delle donne e nel insomma nel terrorizzare il mondo intero, volere la parte bella del mondo. Dunque c'è stato questo dibattito in anticipo, cioè il venerdì sera, prima che iniziasse. E quest'anno poi c'è stata anche una certa presenza di italiane, a differenza allora, di altri anni. Allora, last but not least, come dicono gli inglesi, le inglesi, questo è il fatto geniale dei nostri viaggi, direi anche qui il corpo viaggia, sì. E voi mi avete fatto viaggiare, quelle di Roma, quelle di Bari, quelle di Bologna, prima l'anno scorso invitandomi alla Lesbian Gay Pride, di Bari, nazionali di Bari, facendomi parlare di... sono dunque le desideranti che mi hanno fatto venire per fare una piccola conferenza di Bagdam. E poi ci siamo conosciute tutte in vari, per esempio Rosana Fiocchetto che ci ha fatto l'onore di venire dalla sua Umbria profonda, ci conosciamo da direi 20 anni e io andavo spesso in Italia, a Roma, ho vissuto a Roma e conosco abbastanza bene il movimento femminista e lesbico separatista, per cui per me è vero che tramite il mio italiano anche sì. Parlato, è vero che era una felicità immensa di poter invitarvi tante numerose. Siete, quando ho introdotto il convegno ho detto sappiate che siete, che qui una lesbica su 10 e una lesbica italiana, allora applausi, eccetera, eccetera. Sì, e infatti sì. Le lesbiche sono delle grandi viaggiatrici e è vero che si mischia sempre il politico e l'affettivo. E l'affettivo nel bene e nel male, ci piace quando nel bene appunto funziona. Sì, infatti. Va bene, ti ringraziamo tanto. Grazie a voi, insomma un saluto a tutte le lesbiche romane che conosco e che non conosco e spero di conoscerle fra poco. questa è Dior Verlaine. Grazie tante dei messaggini. Li leggiamo dopo, nel quarto d'ora di diretta. No. È finito? Sì. Ah, è comunque un bacio perché noi se l'aveva promesso. Oh, detto questo, poi allora passiamo con l'intervista adesso a Michel Kos, poi partirà la nostra sigla finale, però rimanete con noi perché rimaniamo in diretta, io e Tania, tutte per voi, quindi mi raccomando, con tantissimi appuntamenti rimanete con noi. Vogliamo ridire il numero di telefono? Per altri messaggini? 338 4146 682, dopo li leggiamo e vi salutiamo meglio. Allora, partiamo con l'intervista. Qui con Michel Kos, scrittrice in Francia molto conosciuta, soprattutto amata dalle lesbiche, e ora lei ci spiegherà un po', ci parlerà un po' di sé, visto che in Italia invece è un po' meno conosciuta e abbiamo questa occasione per poterla incontrare, e ci racconta un po' direttamente lei di sé. Allora, direi che è una questione di generazione, perché le lesbiche italiane che hanno una certa età mi conoscono. Sì, quelle che hanno istituzionalizzato la casa delle donne, per esempio, mi conoscono, sì. Perché io veramente sono venuta alla luce a Roma nel 69-70, quando si è creato il movimento Rivolta Femminile con Carla Cardi, Carla Lonzi e Elvira Banotti. Io sono stata molto legata a loro, che erano tutte eterosessuali, fino al giorno in cui dovevo dividere mitra fuori, fuori che era un movimento omosessuale maschile, e le donne che erano eterosessuali e femministe. Io non mi ritrovavo più in questi due gruppi. C'era la famosa Silvana che aveva scritto un libro che aveva prefacé la Beauvoir, e questa mi voleva portare con gli omosessuali maschi. Ho detto no, guarda, sto ancora meglio con l'eterosessuale, ma me ci vogliono le donne. E lì le donne mi hanno insegnato molte cose in Italia, specialmente la Banotti, che ha, come la conoscete, un sangue misto. E la Banotti ha una grande qualità, a parte gli eccessi di cui può essere a cui si può rimproverare certi eccessi, è una donna estremamente coraggiosa e ho imparato da lei il coraggio, cioè il coraggio di esprimersi in un momento in cui, ripeto, ero circondata da lesbiche omosessuali non femministe, mondo romano dove tutte vanno a letto con tutte, però nessun pensiero femminista, e o dall'eterosessuale femminista, ma nessuna lesbica. Allora un giorno non ce ne potevo più, ho detto: sentite ragazze, io sono lesbica, non mi ritrovo in tutto quello che dite, i vostri uomini che vi picchiano, le vostre storie, a me non ho niente da dire del genere, sono felice, felice, sono lesbica. Allora lì c'è stato un interesse a Roma, e io ringrazio Roma per questo, c'è stato un movimento che non è esistito in Francia, come l'accetto e l'olio. Le lesbiche sono diventate femministe, le femministe sono quasi tutte diventate lesbiche, è una cosa che si dice, ho visto solo a Roma, solo a Roma. Ma ieri ho sentito il tuo intervento, sì. Ovviamente, quindi è vero innanzitutto che tu parli benissimo italiano, come hai iniziato il tuo intervento dicendo proprio questo. E poi hai fatto un intervento basato un po', che partiva da Scum, scritto da Valerie Solanas, e appunto il tuo intervento si intitolava Chi ha paura di Valerie Solanas. E vuoi raccontare alle nostre ascoltatrici il senso di questo tuo intervento? Beh, veramente me l'hanno chiesto qui, perché il tema era furore e giubilio, e io pensavo che Valerie Solanas fosse un esempio perfetto di furore, perché è passata all'atto, dopo tutto lei ha cercato di uccidere un uomo, e mica un uomo qualsiasi, un grande artista. Lei ce l'ha con gli artisti, come la Carla Lonzi d'altra parte, non so se la conoscete ancora la Lonzi, non è che ci andavo troppo d'accordo. Perché appunto Valerie Solanas ha sparato ad Andy Warhol, forse non tutte lo sanno. Oui, era un grande artista che le aveva promesso tanto, perché naturalmente i maschi hanno il capitale simbolico, finanziari, eccetera, e le lesbiche non hanno niente. E dunque la Solanas aspettava tanto da lui, comprensione, aiuto, eccetera, e non l'ha avuto. E allora ha sparato un uomo che stava con lui, un compagno, insomma, il mondo gay che possiede tutto ancora da noi, è sempre così, i gay hanno tutto e noi non abbiamo niente. Insomma, io volevo sfilare nelle strade di Parigi dicendo potere gay in potere lesbico. Perché abbiamo certo un grande potere simbolico, abbiamo un pensiero, abbiamo tutto un corpus teorico, letterario enorme, però che non viene divulgato, che non viene difficilmente pubblicato. Il mio ultimo libro però è stato pubblicato da un omosessuale abbastanza illuminato per farlo, ma adesso ho un altro libro pronto. Si vedrà, ma non credo che sarà una donna di una casa editoriale qualsiasi o un uomo qualsiasi che lo farà, dovrei darmi da fare, cercare. Poi naturalmente essendo una lesbica, essendo una resistente al genere, come si dice in italiano, il genere? Genere. Sì. Genere. Ecco, io ho una definizione secondo la quale la lesbica è la resistente contro il genere. Tutta la vita fa una resistenza tanto superficiale, vestimentare, cioè, quanto profonda di pensiero contro il genere. Certo. Allora questa cosa finalmente doveva approdare nella mia vita. Tornavo intorno, eccetera. Finalmente ho creato un pronome, perché la Wittig scriveva je sbarato, perché in fondo lo je, il soggetto significante, non può parlare. Insomma, il mio lavoro comincia laddove finisce quello di Wittig, perché io non penso che si possa dire la lesbica non è una donna e non continuare dicendo che cos'è dunque. Se non è una donna, se non è né politicamente, né fisicamente, né simbolicamente alienata dall'uomo, ma che cos'è quest'essere? Ha da definirsi, ma positivamente. E quindi tu come l'hai definita? Beh, cioè non vorrei dirlo adesso, no. Veramente c'è un libro in preparazione, sì, che si chiama La moulinette hegelienne à l'épreuve de la sapience, perché io vorrei una disumanità, perché l'umanità così come esiste, una degenerazione. Ho detto che la lesbica è un degeneré. Degenere in francese è una parola che è un injure, un insulto. Sì, degenerazione. Voilà, degenerazione, esatto. Perché c'è una grande figura del movimento femminile in America che si chiama Barbara Deming, aveva molto sofferto in periodo della sua vita perché non poteva avere la guardia della bambina, della sua compagna, perché al tribunale avevano detto che era una degenerata. E allora io ho pensato che dovevo dedicare questo testo, che è stato pubblicato in Canada, a lei. Dice, e ho ripreso la parola degenerée per farne una vera, come le Guine Rouge in fondo, una ripresa di un insulto per farne un'altra cosa. Poi questo mi ha dato altre idee, a partire da lì sto creando la Sapience, che è un'alternativa all'umanità, perché così come l'umanità, dato il mio lavoro sul linguaggio, perché ho dimenticato di dire che io lavoro sul linguaggio, specificamente sul linguaggio, essendo letteraria, la mia formazione letteraria, sono scrittrice, ho tradotto i vostri autori e autrici in francese. A me preme il linguaggio e l'alienazione creata dal linguaggio che parliamo di continuo. Questo Wittig l'aveva detto bene, però non solo lo dobbiamo dire, ma dobbiamo cambiare il linguaggio in modo che sia sempre comprensibile, perché è la nostra eredità, purtroppo no. Io l'ho chiamato Androlect, perché per me il linguaggio è essenzialista, maschilista e neantizzante per metà dell'umanità. Tanto bisogna leggere Le Cratil de Platon per vedere che siamo fuori umanità, non nominabili né nominate altrimenti che riproduttrice. Dunque, siccome la lesbica non è lì, una lesbica è fuori da tutto questo, deve esistere. Ricostruiamo un linguaggio. Sì, ma non un patois, non un dialetto, una cosa che sia contro l'androletto, ovviamente, che noi parliamo di continuo come se fosse nostro, ma non è nostro, non è costruito alla nostra glorificazione, è costruito alla nostra neantizzazione. Allora non si può andare avanti così, bisogna dire, ma che cosa si parla ancora in androletto? Ah, ma voi parlate l'androletto e non possiamo continuare. Queste cose non mi creo né al femminile né al maschile, perché il femminile che cos'è? È una costruzione del maschile, è una costruzione annessata, annientata, e che vive di che? Della procreazione, della riproduzione, che dà il suo tempo, la sua forza di energia, tutto all'uomo, cioè non esiste che in funzione dell'uomo. Per me questo è il femminile, costruzione del maschio. Dunque il femminile, invece voglio salvare un sacco di cose delle oppresse, perché in quanto oppresse abbiamo certi, non dovrei dire questo nome, valori, che è un po' essenzialista, ma insomma abbiamo delle qualità che hanno molti oppressi, che siano oppressi neri, che siano oppresse donne, abbiamo delle qualità di pensiero, tra l'altro, di azioni, che sono dovute al fatto che non abbiamo niente, che dobbiamo sempre conquistare, lottare, pensare, resistere. Per essere lesbica è una fatica di ogni giorno, perché ti vogliono embrigader dans le genre. Imbrigliare. Ecco, nel genere. Chiudere dentro. Ecco. E questo non è possibile, in quanto lesbica sei un soggetto autonomo che vuoi essere all'origine dei fenomeni. Non vuoi essere né nominata né dettata cosa devi fare. Tu, questo lo devi decidere da te. Allora, è un pensiero. Pare un po' difficile, è vero che non scrivo facilmente, mi esprimo più facilmente oralmente di quanto lo faccia, perché la scrittura per me, come dire, imbriglia anche lei. Ecco, voilà, specialmente con le parole che abbiamo, dunque sono conosciuta anche per inventare molti nomi, questo dà ancora un po' più di fastidio, però se la parola fosse la scrittura non scriverei, ovviamente, perché c'è un'inventività propria al linguaggio scritto che mi sta molto a cuore, perché per esempio nel linguaggio posso inventare la figura evolutiva, se vuoi. Si comincia da L, la donna, poi la donna femminista che diventa ELL, e poi la donna, il per esempio, perfino addirittura la donna annessata dall'uomo la chiamavo il, I-L-L-E, da noi è il maschio, I-L-L-E è la femmina di il, cioè non si sa le potenzialità, salvo quando diventa L-E-L, cioè una femminista. Che poi si pronuncia, però è... Sì, ecco, si vede solo nella scrittura. Sì, perché... E poi quella che è finalmente lesbica e che, secondo me, inventa un mondo, e lì temo di dire una cosa un po' enorme, ma la dico lo stesso, che sarà la nuova universalità. Perché ci si ritrovano alcuni omosessuali maschi. Non so perché, ma io ho avuto comprensione da parte di certi omosessuali maschi che fanno una riflessione sul loro secolare ordine di dominanti, insomma, rimettono in questione i migliori, sono rarissimi come la perla nel fieno, però esistono e hanno molto più potere di noi. Potere, dico, finanziere, perché simbolicamente loro chiedono poco, chiedono solo di essere assimilati in mondo che è già maschile per loro. Allora non sono rivoluzionari loro, hanno molto da imparare da noi e dovrebbero lasciare parlare noi. Allora, non ho sempre alleati tra le quindi omosessuali maschi. Quindi sono più rivoluzionarie le lesbiche che non non c'è paragone. Non va sono bene. Rivoluzionari per niente. Questa conclusione ci piace. Sì, è vero. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.